dolce. File di scorpioni sulla sabbia mentre io l'anima mia raccomando a Dio. Una donna sola è tutto un mondo contro me, mentre muoio e penso a te. Questo è quello che tutte le notti sogno io, da quel giorno che mi hai detto addio. Torna, torna indietro, amore mio, non far così, sento che mi fai morire. Bye.